La strage del 1° maggio. È stato il 1° maggio, tra fiori, canti e suoni, Giuliano e la sua banda armati stanno già. Alcuni delinquenti, di cui signora il nome, gli ha detto per iscritto che cosa deve far. Giuliano alla sua banda quella scrittura ha letto, sul popolo innocente c'è scritto di sparar. Cadute le bandiere di quei lavoratori, adesso pensa duri che libero sarà. Chi fu l'infame che diede quel comando a Turi promettendo onori e libertà? Passare